casa morto 2 mesi fa, infatti gli hanno già fatto la lettera, perché c'è una sorella sola, la madre è morta, il padre è morto, c'è una sorella sola, di venire a liberare il posteggio perché è tutto pieno di Ganò e di Motovici. Io sono qua, ma è come che sia lì, c'ho la residenza io lì in via Guramaffa, quindi non sono residente qua, a me mi arriva tutto in via Guramaffa, perciò lo sto dicendo, è morto 2 mesi fa, l'hanno trovato morto a casa, ho trovato l'amministratore del condominio. Sono arrivato lì, era cantiere, siamo stati 2 anni senza, con la luce del cantiere, senza ascensore, senza niente, abitavo al 5° piano, non so, ecco, nella palazzina di Muglia abitavo io, ok, al 9° piano, a fianco, nell'altra palazzina abita ancora mia suocera, cioè abbiamo un altro appartamento lì. E soprattutto era sempre solo, era sempre solo, quando era viva la madre lui quell'appartamento se l'aveva affittato a studenti e lui viveva a casa della madre, poi gli è morta la madre, lui se ne è tornato lì e praticamente l'hanno trovato lì, morto. Ha fatto di tutto quell'uomo, ha fatto anche gare in macchina, ha fatto di tutto, lui viveva solo, lui via, non c'era niente. Immagina che io lo conoscevo da non era abitava neanche nel mio palazzo, io l'ho conosciuto quando lavorava da Ottolini, ho lavorato per 20 anni da Ottolini al bancone, ai ricambi. Sì. Tranquilla, una persona specie dei fatti suoi, non rompeva le scatole a nessuno, un po' più travaganti, qualche volta l'ho messo attaccato, ma per motivi così banali, ma niente di particolare, ma io me lo guardavo solo e dicevo vai Muglia, non mi rompi le balle a me, vai, quando bacia l'imbreghiera mi va a vedere, e poi niente di particolare, proprio 0 sotto 0. Abitavo più, però hanno coinvolto rotto tutto il condomino, figurati tu. Per tutte le fare funerali, perché non c'era manco un cinto. E già lo so, già lo so. Era così povaraccio, non valia nulla. Ehi, ma vedi una famiglia, via via, guarda. Ehi, si imbriagava a me. Fa portare i bolacchi a casa giù. Già lo so, già. Per interesse, non lasciamo perdere, su cosa mi interessa. Faccia l'anima sua. Va bene. E Gianni dov'è? Andato a mangiare, Gianni. Oh, anche Luca. Sì, sì. Mi ascolti, sì? A Puglia. Cappagappa, vabbè. Dai, ci sentiamo dopo, che vado a mangiare una frutta. E poi mi faccio un riposino, intanto già sono a casa, sentiamo tra un pochino, se entra qualcuno, e se no passera. Ciao Antonio, e ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, a dopo. Appagata, ciao ciao.